righe dall'inizio. Sì, 5 righe dall'inizio della pagina 16a, Te Zaina Mudalef, la Gemara dice, cita la Mishnah, abbiamo studiato nella Mishnah, signori, abbiamo studiato nella Mishnah, che se una persona legge lo Shema in un ordine diverso di quello indicato nel libro della Tefilah, cioè legge in maniera diversa, legge per esempio prima il secondo pezzo, poi il primo, o prima il secondo versetto e poi il primo, le mafrea a ritroso in maniera in ordine diverso da quello indicato. La Mishnah ha detto lo yatza, non esce l'obbligo, non esce l'obbligo, deve ripetere, tornare indietro fino al punto in cui ha cambiato l'ordine e ripetere da lì. Questo è quanto abbiamo studiato nella Mishnah. Ora la Gemara, nel commentare questo passo della Mishnah, cita un aneddoto accaduto con alcuni dei Chachamim, degli Amoraim, dei maestri dell'epoca del Talmud, della Gemara. Cosa è successo? La Gemara racconta così: Rabbi Ami e Rabbi Asi, c'erano due famosi maestri dell'epoca della Gemara, Amoraim, Havu Kakatren Leigenana le Rabbi Elazar, stavano legando letteralmente, stavano mettendo su una struttura di chuppa per il matrimonio di Rabbi Elazar. Allora, mentre loro stavano preparando questa chuppa, questa genana, chuppa, Amar Lehu disse a loro Rabbi Elazar, Adehache veache, mentre voi state facendo questa preparazione, cosa faccio io? Invece di stare qui a guardarvi, cosa fa un ebreo? Prega. Va a studiare Torah. Ha già pregato. Isel veishma milta beve midrasha. Vado ad ascoltare qualcosa che dicono d'insegnamento nel Beta Midrash. E poi veiti veimalechu, poi tornerò e vi racconterò quello che ho imparato. In modo tale che mentre voi fate questa mitzvah di preparare per me la chuppah, io faccio un'altra mitzvah e vi faccio studiare anche a voi. E allora va al Beta Midrash. Azal andò. Ashkachei le Tana, trovò che il Tana, non il Tana della Mishnah, il Tana, quello che ripeteva le fonti, le Baraitot e le Mishnayot, stava insegnando. Cosa stava insegnando? Katane Kamei di Rabbi Yochanan. Al Beit HaMidrash il maestro era Rabbi Yochanan, e il Tana, vi ricordate, abbiamo spiegato la figura del Tana che conosce a memoria tutte le Beraitot e tutte le fonti. Stava ripetendo, ovvero imparando, insegnando, davanti a Rabbi Yochanan, stava citando la seguente cosa, che si lega alla nostra Mishnah. Qual è questa cosa? Ha detto così: Kara, se la persona ha letto lo Shema, veta'a, e ha fatto un errore, cioè ha saltato una parola, oppure non ha saltato tutto un versetto. Ok? Cosa deve fare? La Braita che lui citava diceva: Veino yodea lehechanta'a. Non si accorge di aver sbagliato, ma non si ricorda da che punto in poi ha iniziato a sbagliare. Si ricorda che ha detto Shema Israel, per esempio, Vavta Teshem Lokecha, poi quando arriva Vayam Shamoa dice: Scusa, ho mischiato tutto, ma dov'è il punto in cui mi sono sbagliato? Non mi ricordo. Veino zocher, no yodea. Allora, se si trova Be'emza HaPerek, se lui nel momento in cui si accorge di aver sbagliato è in mezzo a recitare uno dei brani dello Shema, non è tra un brano e l'altro, è in mezzo a uno dei brani, Be'emza, allora sa almeno in che brano si trova, in quello lo sa. Allora in quel caso, Yachazor la Rosh, torna all'inizio di quel brano in cui ha fatto l'errore e ripete di nuovo solamente quel brano lì, perché gli altri brani precedenti li ha detti bene. Ok? Perché deve tornare indietro? Se per esempio lui sa qual è il versetto che ha sbagliato, potrebbe tornare a leggere solo quel versetto. Invece no, perché se facesse questo rientrerebbe in quello che la Mishnah dice, Hakorel le mafrea. Se uno legge in un ordine diverso non esce l'obbligo. Allora, di conseguenza, torna all'inizio del brano e rilegge tutto quel brano nell'ordine corretto per non fare un secondo errore e fare anche l'ordine sbagliato. Ok? Quindi non basta correggere e poi riprendere da dove ci si trova, perché quello sarebbe leggere Anche se nell'ordine. sapesse quindi qual è il versetto dove ha sbagliato, in quel stato comunque dovrebbe ricominciare dall'inizio del brano che sta leggendo. Esattamente, esattamente. Mentre invece se sa che ha concluso un brano e adesso si trova alla fine di un brano, ben Perek le Perek, ha finito un brano e non si ricorda quale brano ha finito. In mezzo dice, cosa ho detto adesso? Ho detto Visharecha, ho finito Ve'avta? O ho detto Le mani Rivui Mechemed, ho finito Ve'yam Shamoa? No, non sono chiare le idee, non sa quale, sono i bra quale brano ha finito. Allora in quel caso Yachazor la Perek Harishon torna non all'inizio del primo brano. La Perek Harishon vuol dire alla prima interruzione, se lui sta tra un brano e l'altro. Quindi sa che un brano sicuro l'ha letto. Allora non deve tornare all'inizio del primo, torna all'inizio del secondo. Se stava in mezzo aveva finito già il secondo, lo ripete, poi va avanti nel terzo. E se non l'aveva ancora iniziato, va bene uguale perché allora sicuramente lo deve iniziare da lì. Quindi lui sa di aver finito un brano, ma non sa Non quale sa brano ha quale. concluso. Quindi potrebbe essere che ha concluso il primo, potrebbe essere che ha concluso il secondo. In quel caso torna di nuovo al primo. All'inizio del primo. Sì. Yachazor le Perek Rishon, dice la Gemara. Senza dire i due versetti iniziali. Esatto. Ben ktiva li ktiva, se ha detto la parola uchtavtam e si è confuso, non sa se è la prima volta nella parasha di Ve'ahavta o la seconda nella parasha di Vayayim Shamoa, e lì si è confuso, allora Yahazor li ktiva rishonah, secondo lo stesso principio, torna alla prima volta che si dice uchtavtam e da lì continua tutto sull'ordine, senza di nuovo rovinare l'ordine delle cose. Ok? E questo ha citato il Tana che insegnava, che ripeteva e citava gli insegnamenti dei Chachamim dinanzi a Rabbi Yochanan quel giorno nella Yeshiva. A quel punto ha finito di citare questa halakha. La halakha stessa è chiara, sì? Abbiamo capito? Sì. Ok, molto chiaro. A quel punto Rabbi Yochanan si è rivolto al Tana che citava e ha detto: Amar lei Rabbi Yochanan. Disse Rabbi Yochanan a lui, cioè a quel Tana, lo Shanu, riguardo quest'ultima cosa che tu hai detto, che se ti confondi tra un Uchtavtam e l'altro Uchtavtam, devi tornare al primo, là non hanno insegnato questo, che bisogna tornare al primo, e la Shelo Patach Bele Mani Irbui Mechem, solamente se la persona non ha già iniziato a dire le Mani Irbui Mechem, che è la conclusione del secondo brano, del Vayayim Shamoa. Ma se ha già iniziato Ela Aval Patach bil Mani Rvui Mechem, se ha già iniziato a leggere il Mani Rvui Mechem, allora sicuramente. E poi dice: mi sono confuso, forse sto all'Uchtavtam, il primo Uchtavtam del Ve'avta. Allora no. Sarchei Nakat Ve'ate. Sicuramente ha preso l'abitudine, sicuramente stava nel secondo Uchtavtam e. Visto che ha detto le mani Rui Mechem, è probabile che per l'abitudine ha detto stava veramente nel secondo brano, che non si è confuso. E in quel caso non diciamo devi tornare indietro, continua normalmente. Di nuovo, lui ha citato la Braita che se tu ti confondi da un Uchtavtam e l'altro, devi tornare al primo. Così per sicurezza hai detto tutto. Dice Rabbi Yochanan, questo è solamente nel caso in cui tu hai detto Uchtavtam. Al mezuzot betecho visharecha, a quel punto ti fermi e dici scusa, dove sto? Alla fine del primo? Che conclude così? Oppure sto in mezzo al secondo, che anche lì c'è il versetto Uchtavtam? Allora vale quello che Allora vai al primo. Però se tu non ti sei fermato lì, hai detto Uchtavtam, al mezuzot betecho visharecha, le mani, il bui mechem, vimei venechem. Ah, aspetta, ma sto al Uchtavtam il primo? Siccome hai già iniziato a dire le mani, il bui mechem, Rabbi Yochanan dice è probabile che veramente hai detto Vayayim Shamoa. Se no, non avresti concluso le mani di Mechem. Sarchei Nakata, hai detto l'abitudine, poi ti sei confuso. Ma per l'abitudine, sicuramente hai già concluso tutte le prime due, i primi due brani. E quindi non devi tornare indietro. Ora, Amrulei, scusa. Ve'ate ve'amar lehu. È venuto Rabbi Elazar dopo che ha sentito questi insegnamenti nella Yeshiva, nel Beit HaMidrash, ed è tornato al luogo della Chuppa, dove Rabbi Ami e Rabbi Asi stavano facendo la Chuppa. E ve'amar lehu, e ha detto loro quello che aveva imparato. Amru lei, dissero a lui, ilu lo banu ela lishmo adavar ze, dayenu. Se non fossimo venuti, se non che solamente per sentire questo insegnamento, avremmo già detto dayenu, ci sarebbe bastato. Anche senza le altre mitzvot che hanno fatto, le altre cose che hanno imparato, questo già è un grande insegnamento. Cosa è, perché è un insegnamento così grande, secondo voi? Mi sto vedendo proprio questa domanda. Cosa pensate? Tutte le volte si impara qualcosa già di per sé. Perché dayenu? Esatto. Già questo che hanno sentito è basta. Per la continuità delle preghiere. Già il fatto cioè, che uno impara devi, qualcosa è già di per sé. Quando ricominci le cose devi concludere. Già di per sé giustifica. Già? Il fatto già che uno impari qualcosa è forse. Ok, così. Però hanno detto sì, il fatto di imparare questa cosa è così importante che noi diciamo dayenu. Cos'è il dayenu qua? Vediamo se uno dei commentatori. Ma dayenu, ma limuda kol kach gadol kan? No, ken. ואם כן הגיע, אז הוא לא צריך לחזור. כי סרחי נקטי הוא. כן, בטוח זה חידוש, אבל למה זה חידוש כל כך גדול שהם אומרים על זה דיינו? פורס אל הנוביטה אה, אולי החידוש, פורס אל הנוביטה אה, כפרימה ביום סודיאטו, dalle parole della Baraita stessa abbiamo studiato che se tu fai un errore in mezzo al brano devi riprendere dall'inizio di quel brano, vero? Sì. Se invece fai l'errore tra un brano e l'altro, quindi sai di aver concluso un brano ma non sai quale, torni all'inizio del primo brano. Quello che ha detto Rabbi Yochanan non è né questo né quello. Rabbi Yochanan praticamente ha detto nella Baraita si è insegnato qual è l'alaha, ma c'è un elemento che non è stato ricordato nella Baraita. Qual è questo elemento? L'abitudine. Cioè che c'è un ulteriore elemento che bisogna prendere in considerazione. Oltre al fatto che la Mishnah dice non si può leggere a ritroso e quindi bisogna fare attenzione a non riprendere il punto dell'errore e poi tornare via al punto originale di lettura per non cambiare l'ordine. E quindi in base a questo principio il Tana ha insegnato nella Baraita che se tu stai in mezzo al brano e fai un errore, torni dove devi tornare? All'inizio di quel brano. Se stai tra un brano e l'altro devi tornare al primo brano, eccetera. Viene Rabbi Yochanan e dice c'è anche un altro elemento da prendere in considerazione ed è l'abitudine. Se è un errore di questo tipo come uchtavtam uchtavtam, cioè di confusione perché c'è una parola che è simile nel primo brano e nel secondo, dice c'è un'altra cosa da prendere in considerazione, cioè l'abitudine. Vuol dire se per abitudine hai proseguito con le man irbui mechem, invece di dire sicuramente hai fatto un errore che hai concluso il primo brano uchtavtam al mezuzot beitecha o bisharecha e poi hai saltato tutto il secondo e hai detto le mani il buim echem, no, noi diamo per scontato che tu non hai fatto questo, che invece per abitudine hai detto le mani il buim echem perché hai concluso anche il secondo brano e quindi non devi proprio tornare indietro e esci l'obbligo dello Shema, perché la Mishnah ha detto kara veta'a lo yatza. Se fa un errore, manca un versetto o un brano, non esce l'obbligo, deve ripetere tutto lo Shema. Viene Rabbi Yochanan e dice, però se abbiamo un motivo per dire che per abitudine l'ha detto, anche se non ce l'ha chiaro in testa, gli ricordo di averlo detto, comunque esce l'obbligo, non deve tornare indietro. Allora loro hanno detto, questa è una novità, grazie che sei andato al Beit HaMidrash e ci hai portato questa novità che noi non avremmo potuto decidere da soli, diciamo, una cosa così. Serviva che Rabbi Yochanan intervenga e metta questo appunto sulla Baraita che abbiamo studiato. Però questo lascia comunque a mezz'aria la possibilità di un errore effettivo. Perché? Non tutti gli errori sono per una parola. Perché per abitudine può anche sbagliare di continuo. Sbaglia una volta, due volte e lui va bene. Beh, tutti e due, però non solo. In altre parole, forse è questo stesso l'insegnamento di Rabbi Yochanan. Non prendiamo in considerazione che la persona come default sbaglia. Al contrario, prendiamo in considerazione che la persona come impostazione, come default, non sbaglia, a meno che lui ha un vero motivo di dire ho sbagliato, ma il fatto di dire questa parola è simile, quella è simile, avendo anche proseguito nella lettura del secondo brano, le mani Ruhi Mechem, come l'esempio qui, allora diciamo appoggiamoci al default, e il default è corretto, non è sbagliato. Ma perché solo Ktata? Non ci sono nelle due. È un esempio. Cioè, è un esempio, però altre parole uguali. Sì, ma questo è tutto il verso uguale. Ktata, mal, mezuzot, betecha, visharecha. Ah, no, apposta, io pensavo solo bastava qualche parola. Solo che se attacchi dopo, no, però anche lì allora vuol dire che qualche parola. Invece qui è rafforzato. Ok, qui siamo arrivati alla prossima Mishnah, sulla pagina 16a. Concludiamo qui e studiamo un pochino di Hasidut.